Questo dal 1997, sono i Smoke City e la loro versione di Aguas de Amargo, l'originale fatto da Astro Gilberto. E questa versione di Smoke City intanto è la Yoga Bossa Mix, quindi un po' di remix pure lì. Allora, oggi ci tenevo di mettere un pezzo di Bob Marley, visto che due giorni fa, l'11 maggio, era il 20° anniversario del suo morto. E adesso ascoltiamo Waiting in Vain del 1977. See? Charlie and the Wailers, e questo viene dall'album Dreams of Freedom, cioè un album completamente versione dub dei pezzi di Bob Marley, sempre creditato a Bob Marley and the Wailers, anche se è uscito molto dopo il suo morto. Bello proprio. You're listening to Remake, e dopo la pubblicità torniamo con proprio un classico. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Remake. To the song they're playing on the radio. While color lights up your face, sway through the room to an empty space. If you stay run, I'll run with you. If you say hi, we'll hide. 'Cause my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms, trembling. Cause my Dance, registrato dal vivo a Londra nel giugno del 2000, bellissimo. Questa è la versione originale di David Bowie, cioè l'ha scritto lui, è stato un mega hit per lui nel 1983. Poi che è successo? È arrivato un certo tipo che conosciamo tutti della musica americana, cioè Puff Daddy, e nel 1997 ha rubato il base per fare già un'altra cover, Been Around the World. Black rock. So if you wanna dance, you can. Yo, that trick what they do, they ain't what mates do. Got a lot of girls that'll love to replace you. Tell it to your faithful, not behind your back. People talk, never mind that. Honey, never find that. Puff down stack, right? Hot stuff that make people say rewind that. People know, go against all them gigolo. Get your hoes, so make your girl think it though. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Hold so by late, so I look both ways. Cop says okay, but tent smoke rain, no way. People leave without handing me my chips. Got plans to get my land and my six. People out of town don't understand he said. Pop champagne like I won a championship. Come on, been around the world, nah, yeah, yeah. And we been playing, I hate that. I don't know what, I don't know why they want us faded. I don't know why they hate us. Because our ladies want to drop the faded. Baby, baby. I was in one bedroom, dreaming of a million. Now I'm in beach houses, cream to the ceiling. Right. I was a gentleman, living in tenements. Now I'm swimming in all the women that be telling. Ooh. Went from bad boys to the crushed linen men. Now my dividends be the new Benjamins. Uh-huh. Girls of all complexions, I like cinnamon. Make you got some girls with flavor cinnamon. What you waiting for? Let the freak show begin. How they came in a truck. That's a Benz. Mercedes, come here, baby. Come, you don't like it where it's hot and hazy. Never shady, you must be crazy. It's ridiculous how you put your lips on this. Don't kiss right there, girlfriend, I'm ticklish. And I be switching D's with a wrist full of G's. Hey, please, I'm the macaroni with the cheese. Been around the world, nah, yeah, yeah. We been player, hate it. I don't know when, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Is it our ladies? Yeah. I'm young, I'm making my bed to see that all ladies come. Yeah, get them all strong from the tip of my tongue. Looking places, players wouldn't dare put their face. Before I die, hope I when they can flow by. In the brand new treasure on the old try. Never my throat dry, even when I smoke. I eat the mommy throat dry and drive a low fly. We never ride far, pack five in the car. Save money for the drinks, I'm about to buy the bar. And everywhere I drive, I'm a star. Little kids all on the corner scream, that's my car. It was days, couldn't be fly. Now I'm in a T.I. Coming clubs with B.I. Now in V.I. Rock tons of gold, enough money I fold. Roll the way you wanna roll, break 100 at the toll. Been around the world and I, yeah, yeah. We been player hated. I don't know what, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Why they hate us? Is it our ladies? Is it our ladies? Or drop the faded? Say what? Let's Puff Daddy and Been Around the World on Radio Kiss Kiss Network on Remake. Allora, questo è già un cover di un altro brano, pure Lisa Stansfield l'ha fatto, e magari lo proponiamo in un futuro edizione di Remake. E a proposito di pezzi di David Bowie, perché in sottofondo lì c'era il Let's Dance di David Bowie, c'è pure chiaramente Ashes to Ashes che ha rifatto Samantha Mumba. Tante cose da ascoltare al nostro Remake. E se voi avete qualche idea di mandarci, il nostro, il numero, cioè il mio indirizzo è internet, è fergal@kisskissnetwork.it. Ecco Van Halen. Oh! house, a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to be. Taken from their first album with the voice of Dave Lee Roth, 1978 era l'anno e l'album si intitolava proprio Van Halen, e c'è in questa voce che saranno insieme un'altra volta i Van Halen e Dave Lee Roth, però non è confermato questa voce. Allora, you're listening to Remake, che vuol dire che dobbiamo ascoltare una versione moderna di questo brano, rifatto in chiave moderno. E allora guardiamo in Inghilterra e andiamo al 1997 e troviamo Apollo 440. L'album si intitola Electro Glide in Blue, e il pezzo non è Ain't Gonna Talk About Love, ma Ain't Gonna Talk, scusi, Ain't Talking About Dub. we're talking about dub. That's the sound of Apollo 440 on Remake questo domenica pomeriggio. Bellissimo il loro cover di Van Halen. Ah, portano proprio un bel svizzio, un bel chiave, tocco moderno a questo pezzo. Allora, grazie ad Umberto che mi ha scritto giovedì e poi mi ha riscritto adesso sull'SMS 348-661-9461. Volevo sentire Angie, la versione di Tori Amos, però prima ti facciamo sentire la versione dei Rolling Stones. Angie. Album Crucify dal 1992, that's Tori Amos facendo il suo cover del classico delle Rolling Stones, Angie, e questo lo dedico ad Umberto. Allora noi prendiamo una piccola pubblicità e quando torniamo andiamo al cinema. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. canzone Telephone Americano prima che avevano concepito la versione cinematografica with Tom Cruise. That's Lalo Schifrin, proprio la bella musica, la vecchia musica. Allora vogliamo sentire un po' com'è nella chiave moderno. Allora sappiamo tutti quanti che Tom Cruise ha rifatto il film, ha avuto un sacco di successo e che il primo disco, il primo soundtrack era fatto pure di quello degli U2, cioè Adam Clayton e Larry Mullen, ma Mission Impossible 2 poi è uscito e Limp Bizkit hanno avuto l'onore di fare il title track, and this is them on Remake questa domenica pomeriggio with Take a Look Around, a theme from Mission Impossible number 2. Share it, leaves you bare. That's One, uno dei pezzi proprio più forti degli U2, proprio un bel classico. E loro sono stati molto influenzati da Johnny Cash nella loro carriera, hanno molto rispetto per lui, per Johnny Cash, e quindi sarà stato un proprio bel onore quando Johnny Cash ha coperto, ha fatto il cover di One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Questo pezzo è Under the Bridge, proprio un classico, 1991, l'album si intitola Blood Sugar Sex Magic. You're listening to Remake, sono quasi le 17, torniamo dopo i news con il cover di questo pezzo. Mixato, questo è molto bello, è Under the Bridge, fatto dai All Saints, è l'originale per loro almeno, è stato sul loro album del 1997, and All Saints il titolo di quell'album. Però prima delle notizie avete ascoltato l'originale proprio, quello dei Red Hot Chili Peppers. Allora, you're listening to Remake, cioè tutti i vecchi brani rifatti in toccato moderno. Abbiamo il nostro Beppleson Controls, my name is Fergal Kavanagh, e voglio salutare a tutti quelli che mi hanno scritto il messaggio. Ciao Roberto e Teresa, mancano 398 giorni al sì. Ah, questo è buono proprio, 348-661-9461, questo è il nostro numero del GSM Box. Allora, andando avanti, se ascoltiamo un pezzo da un gruppo tedesco, sono tre ragazzi insieme, nel 1984 hanno avuto questo grande hit, l'album Forever Young, It's Big in Japan, e subito dopo ascolteremo il tocco moderno dell'anno scorso, sempre da un gruppo tedesco, saranno Iguana e Apes, this is Alphaville. I'm Remake. Like this. Dalla Germania, dal loro album Don't Give Me Names del 2000 è uscito questa versione del classico di Alphaville, sempre tedesco. Allora, pausa pubblicità per noi e torniamo, che è un brano che è vecchio più di 150 anni. Remake. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Remake. Trouble so hard, ooh la la, trouble so hard, don't nobody know my trouble but God, don't nobody know my trouble but God. Went down the hill all the day, soul got happy and stayed all day, ooh la la, trouble so hard. Oh, Lord, trouble so high. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, Lord, trouble so hard. Oh, Lord, Trouble So Hard. Lei si chiama Vera Hall e il pezzo si intitola Trouble So Hard. È stato registrato in una chiesa negli anni 40, tanto tempo fa. E poi Moby l'ha preso e ha fatto un grande hit, Natural Blues, sul suo album Play. Ma noi proponiamo una versione remix fatta di quella dei Beastie Boys. Questo è il remix di Natural Blues, Mike D Remix, il pezzo di Moby, originale però da Vera Hall. Remake. Oh. Remake. Titolo Born in the USA 1984, questo è proprio il brano che ha lanciato Bruce Springsteen nella mega stardom. Comunque lui l'ha scritto come un critico sull'America, non è stato fiero di essere nato nell'America al fatto delle guerre Vietnam eccetera. Nonostante questo i politici non hanno capito questo fatto e l'hanno usato per promuovere loro elezioni eccetera, e che proprio parliamo di elezioni oggi insomma in Italia. Comunque allora Bruce Springsteen inizialmente aveva scritto questo in versione acustico che volevo incidere sull'album Nebraska, però siccome gli piaceva di più all'epoca quel versione ha deciso di farlo uscire versione mega stadio. Invece eccolo qua con la versione sulla chitarra acustico, molto molto più forte secondo me, vuol dire proprio che schifa l'America. Remake. Remake. Remake. Remake. 1981, that's Hall & Oates and I Can't Go For That, No Can Do. Allora voglio salutare a Skipper e a Maurizio a Salerno, tutti e due che mi hanno scritto delle bellissime messaggi sulle 348-661-9461. Ragazzi, buona domenica a voi. Allora, abbiamo ascoltato Hall & Oates, I Can't Go For That, e come sapete qua in Italia Ron ha fatto un cover with Hai Capito No di questo pezzo, ma noi adesso su Remake on Kiss Kiss Network ascoltiamo una versione fatta nel 1989 da Della Soul. This is Say No Go con campioni di I Can't Go For That, Hall & Oates, tutto remixiato, la vecchia musica con la chiave moderna. Now let's get right on down to the skit. A baby is brought into a world of piss, and if it could have talked that soon in a delivery room, it would have asked the nurse for a hit. The reason for this, the mother is a jerk. Excuse me, junkie was brought the work of the old into a new life. What a way. But this what a way has been a way of today. Anyway, push couldn't shove me to understand a path to a basic. Cause Schumann should have raced it in the first wave. Cause second wave on believers, and believers will walk to it then even talk to it and say, you got no body, now you want my soul. Y'all can't have none of that. Tell them what to say, Mace. So bear my witness, blind like birds of a feather, dressed like leather, you don't wanna wear it. No need to ask that question, just don't mention, you know what the answer is. Now I never fancy Nancy, but the statement she made held a plate of weight. I even stressed it to wait. Did he take any heat? Nah, the boy was hooked. You could phrase the word base, and the kid just shook. In his fashion class, once a now and F, the rock rules him now. The only designs left were once clothes made for Oshkosh has converted to nothing but stonewash. Now hopping in a barrel is a barrel of fun, but don't hop in if you wanna be down, son. Cause down can mean down and out is an action. What does it lead to? Dumb, dumb, dumb. People say, what have I done for all my years? My tears show my hard-earned work. I heard shoving is worse than pushing, but I'd rather know a shover than a pusher, cause a pusher's a jerk. A rip make. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Rip make. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Let me go. Na, na, na, na, na, na. Oh mamma mia, mamma mia, questo lo voglio dedicare a tutte le mamme, perché oggi, come sapete, è festa della mamma, quindi mamma mia, tanti auguri. Allora, Bohemian Rhapsody è il nome del brano e viene dall'album A Night at the Opera dai Queen nel 1975, però poi l'hanno rifatto in tanti. Allora, loro l'hanno fatto famoso un'altra volta, i Queen, attraverso The Soundtrack to Wayne's World, bello proprio, ma pure un soundtrack di un film, High School High. The Braids hanno deciso di rifare una versione di Bohemian Rhapsody, viene dal 1996, The Braids and Bohemian Rhapsody on remake. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, I'll carry on. Nothing really matters. Kind of empty. That beat is kind of hot, yo. My time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. In chiave moderna. Remake. Dark to see. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Oh, bello, bello, viene dall'album, dal film Pat Garrett and Billy the Kid. Questa è la versione originale of Knocking on Heaven's Door by Bob Dylan. Allora, ragazzi, you're listening to Remake, che andrà in onda ogni domenica dalle ore 16 alle 18 on Radio Kiss Kiss Network. Ma non è soltanto un programma nostro, è anche un programma vostro. Questo lo dico perché dovete, se ce l'avete la possibilità, remixare un brano a piacere vostra e spedirlo a noi a Kiss Kiss Network, a via Scambati 61 801 31 Napoli, e se le mandate in CD ci è molto meglio, però anche ad MP3 attraverso il mio indirizzo email fergal@kisskissnetwork.it. E quindi, ragazzi, che aspettate? Mettetevi a lavorare, magari un bel cover pure. Abbiamo ascoltato Knocking on Heaven's Door dai Bob Dylan e adesso ascoltiamo la versione rock fatto da Guns N' Roses, che ci dispiace non vengono in Italia quest'estate come annunciato, però almeno possiamo godere bene la loro versione di questo classico di Bob Dylan. Getting down. going down, walk. Hey, hey, hey, hey, yeah. Nel 1967 Jimi Hendrix ha raggiunto il posizione numero 3 nella classifica inglese con questo pezzo Purple Haze. Comunque questa è una versione alternativa che lui ha registrato, non proprio il singolo. E a proposito di classifica, alle ore 18 arriva Ornella con la classifica dei brani di questa settimana on Radio Kiss Kiss Network. Però nel frattempo noi siamo arrivati al nostro ultimo pezzo, stavamo parlando di Purple Haze e guardiamo proprio un gruppo storico nelle indie rock eccetera, dicono che si riuniscono per fare un concerto in Danimarca quest'estate e chissà se lo porteranno in Italia o no, e speriamo di sì. Comunque questo pezzo che hanno registrato, Purple Haze, sto parlando di The Cure, e loro l'hanno registrato proprio per un radio inglese che si stava lanciando, The Cure and Purple Haze. Robert Smith col classico Purple Haze rifatto da loro. Oh yes, you've been listening to Remake questo domenica pomeriggio, e ragazzi adesso tocca a voi, i vostri suggerimenti e il nostro sms 348-661-9461 oppure al mio indirizzo posta elettronico fergal@kisskissnetwork.it, e potete anche remixare un pezzo a piacere vostro e mandarcelo a Kiss Kiss Network, via Scambati 61 80131, Napoli, e noi se ci piace la mettiamo in onda domenica prossima dalle 16 alle 18. Voglio ringraziare tantissimo al nostro DJ Beppus che ci ha accompagnato questo pomeriggio, sei mitico che sei, e ai nostri ascoltatori, alla loro mamma, alla mia mamma, tanti tanti auguri. Ragazzi, vi do appuntamento domani alle ore 21 per I Love America. Buona domenica.